sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Focus Economia con Deborah Rosciani. Sono le 17.09, buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia. Questa sera in sostituzione di Sebastiano Barisoni per la conduzione del contenitore sui principali fatti di economia e finanza della giornata. Ce ne sono molti anche oggi, naturalmente sta proseguendo a livello internazionale il dibattito intorno alla possibile evoluzione della crisi greca. Ci sono naturalmente delle dichiarazioni anche da parte di importanti esponenti dei vertici europei. Il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem ha detto che non ha nessuna intenzione di conferire questo prestito ponte chiesto da Varoufakis per tenere a galla il paese, il tutto naturalmente per prendere ancora tempo per rinegoziare i termini di un nuovo accordo finanziario con l'Unione Europea e con la Troica. Devo dire che tutte queste dichiarazioni hanno a questo punto un impatto relativo anche sui mercati azionari. Oggi è stata una giornata debole per l'Europa, ma è evidente che a questo punto l'attenzione si sposta agli appuntamenti della settimana prossima. C'è questo Eurogruppo straordinario mercoledì in cui si discuterà delle vicende greche. A questo punto il mercato non reagirà più, immaginiamo, almeno su singole dichiarazioni di giornata, singole notizie, ma si cercherà di capire se si potranno a questo punto avere delle linee chiare di azione sulla Grecia, naturalmente sulla rinegoziazione del debito. Oggi il focus del mercato è stato prevalentemente sul dato sulla disoccupazione americana, che è arrivato nel primo pomeriggio, il dato di gennaio. La disoccupazione a stelle strisce è risalita un po' nell'ultimo mese considerato al 5,6%, però in questo mese l'economia americana è riuscita a creare un bel po' di nuovi posti di lavoro, 267.000 più delle attese, e questo ha rasserenato il mercato. Ha permesso anche un vigoroso recupero del dollaro, l'euro è sceso a 1,1334, stamattina viaggiava ben al di sopra di 1,14, commenteremo anche questo dato, ritorneremo per quello che riguarda appunto gli altri temi come approfondimento di giornata sulla questione dei produttori di latte. Avete sentito la fortissima protesta che c'è stata questa mattina in molte città d'Italia, produttori letteralmente strozzati, una situazione che riguarda i produttori di latte così come i produttori di tanti altri prodotti del settore agricolo italiano, in grandissima difficoltà, e faremo questo focus appunto sul latte perché ci sembra assolutamente molto interessante. Peraltro una grave crisi che si interseca anche con gli scenari internazionali, perché ha avuto il suo peso anche l'embargo russo di molti prodotti italiani su questa situazione. Questo è uno dei tanti temi appunto di cui parleremo. Vi racconteremo un po' qual è il piano per il Made in Italy che è stato presentato questa mattina a Milano. C'era un evento dell'Istituto per il Commercio Estero, e insomma anche stasera abbiamo diversi temi da commentare. Se li volete commentare con noi potete utilizzare come sempre la modalità SMS, scriveteci al 349 238 6666. Direi di partire subito con le notizie in breve della giornata. Thank you. L'economia americana ha creato nel mese di gennaio, lo anticipavamo poco fa, 267.000 nuovi posti di lavoro, più delle attese, anche se il tasso di disoccupazione è salito al 5,6%. Dal 5,7. Le previsioni erano per un tasso al 5,5%. Peraltro non abbiamo ricordato, come facciamo sempre in avvio di notizie in breve, come sono andate oggi le quotazioni delle materie prime. Per l'oro ancora prezzi in discesa, $1,236 l'oncia, il petrolio è leggermente risalito a New York, siamo a $51,7 al barile. E tornando naturalmente sul dato della disoccupazione, che cosa ha detto oggi l'amministrazione Obama? L'America è pronta per un altro anno di forte crescita, sarà fondamentale evitare ogni forma di austerity irragionevole e rischiosa. Chissà che non sia un messaggio indiretto anche al dibattito europeo, facendo invece investimenti per la futura crescita. La Casa Bianca ha commentato così i dati sul lavoro: sono 8 mesi consecutivi con più di 200.000 posti, la prima volta in 20 anni. Però c'è chi riesce naturalmente a trovare anche il lato oscuro di queste statistiche ufficiali. Il numero uno di Gallup, Jim Silfton, tenta di guastare la festa all'amministrazione Obama. Il dirigente di questa importante società afferma nel suo blog che il tasso di disoccupazione al 5,6, che era quello rilevato a dicembre ed era stato il dato più basso dal 2008, sarebbe in realtà un bluff, una grande bugia raccontata dalla Casa Bianca, da Wall Street e naturalmente supportata anche dai media. Il numero di posti di lavoro a tempo pieno sulla percentuale totale della popolazione è infatti il più basso che ci sia mai stato, ha affermato appunto il responsabile di questo che possiamo definire come uno dei principali istituti di ricerca americani. Silfton ha sottolineato che durante la recessione sono stati persi negli Stati Uniti qualcosa come 13 milioni di posti di lavoro e solo 3 milioni di questi sono stati recuperati. Il presidente di Gallup spiega inoltre come gli impiegati part-time, che invece vogliono lavorare a tempo pieno, non vengono conteggiati, così come gli scoraggiati, ovvero gli americani che hanno smesso di cercare un lavoro dopo 4 settimane. E effettivamente a testimoniare uno stato di salute che ancora non è totalmente definibile per quello che riguarda l'occupazione americana, c'è stata questa notizia oggi che ha abbastanza interessato un po' gli osservatori del mercato del lavoro statunitense. Radio Shack, la catena americana di negozi di elettronica travolta dalla crisi, ha fatto ricorso all'amministrazione controllata nell'ambito del Chapter 11, il capitolo 11, che è proprio questa procedura fallimentare che in qualche maniera dà la possibilità alle aziende in difficoltà di chiedere la protezione dei creditori. La società ha poi contemporaneamente annunciato un accordo con General Wireless, una controllata dell'hedge fund Standard General, che è il principale azionista di Radio Shack, rileverà metà dei 4.000 negozi di tutto il gruppo. Un super piano di ristrutturazione che prevede inoltre che il colosso della telefonia Sprint apra un negozio nel negozio all'interno di almeno 1.750 punti vendita Radio Shack, che insomma è una catena estremamente nota negli Stati Uniti. E questa è un'altra notizia che oggi ha movimentato un po' il clima e i commenti sullo stato di salute dell'economia americana. Chi taglia pesantemente anche un'altra grande azienda europea, Siemens, questa è una notizia che circolava già da qualche giorno, che punta a tagliare qualcosa come 7.800 posti di lavoro, il 2% dei dipendenti a livello globale, nel tentativo di tornare in utile. Quasi 3.300 posti saranno eliminati solo in Germania, ha detto la società in una nota, e quest'anno ad aggiungere questi vanno ad aggiungersi ai 15.000 tagli annunciati già a settembre 2013 e ai 1.200 posti tagliati nella divisione Gas e Power. L'obiettivo dell'amministratore delegato del gruppo tedesco, Joe Kaiser, è ridurre i costi di 1 miliardo di euro. Ci chiediamo che cosa rimanga della forza lavoro dopo tutti questi maxi tagli. Allora, il fermento sui mercati valutari internazionali oggi è stato ulteriormente alimentato dal crollo della valuta dell'Ucraina, sconvolta dalla guerra del sud-est russo. La banca centrale ha alzato il cambio ufficiale della grivnia da 18 a 23 per un dollaro. Ieri, per cercare di evitare il collasso finanziario, la banca centrale ucraina aveva alzato il tasso di riferimento dal 14 al 19,5%, perché qua le manovre monetarie si fanno in questa misura. Andiamo alle notizie che arrivano dall'Italia. Oggi si è riparlato di nuovo di questa discutissima riforma delle banche popolari. C'è una dichiarazione del ministro dell'economia Piercarlo Padoan che ha detto: è una riforma della quale c'era bisogno soprattutto di un'accelerazione, considerato che il riordino del settore era fermo da decenni. Sentiamolo. Rafforza un componente importante del sistema bancario, rende queste banche, che sono le principali popolari, non tutte, meglio in grado di sostenere la concorrenza internazionale, di rafforzare ulteriormente i loro bilanci e quindi finanziare l'economia. Noi abbiamo cambiato il quadro, stiamo cambiando il quadro di governance delle banche e le banche prenderanno le decisioni in conseguenza del nuovo quadro, non sta a noi dire cosa devono fare. E stiamo lavorando ad un metodo di gestione dei crediti in sofferenza che può avere varie forme. Sicuramente il mercato avrà un ruolo importante. Piercarlo Padoan oggi è stato interpellato anche dai giornalisti a proposito di un tema che pure è ritornato alla ribalta della cronaca proprio in questi giorni: l'eventuale creazione di una bad bank nazionale per le sofferenze bancarie. Sentiamolo anche su questo punto. Stiamo lavorando, tra le altre cose, sul metodi gestione del problema dei crediti in sofferenza, che può avere varie forme, sicuramente in cui il mercato avrà un ruolo molto importante. Allora, è iniziato oggi a Milano, c'è il Forex, l'evento che vede radunarsi ogni anno in una città d'Italia gli operatori dei mercati finanziari che aderiscono ad Assion Forex, una organizzazione che raduna 1400 soci. Domani l'evento si conclude, noi ne parleremo alle 18 con l'intervento, come sempre, del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ed è abbastanza probabile che domani tutta la platea dei banchieri, che come sempre sono invitati a questo evento, saranno a lungo interpellati con un commento su queste novità, la riforma delle banche popolari e adesso di nuovo anche la bad bank, oltre che tutto il resto, crisi greca naturalmente, poi il quantitative easing e quant'altro. Ma nello specifico adesso ci sono questi due importanti temi italiani, vedremo domani che cosa diranno. Per quello che riguarda poi, come dire, l'industria di sistema, il direttore generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, interpellato proprio oggi a Milano a margine del congresso Assion Forex, ha detto di ritenere che una soluzione di sistema per la bad bank sarebbe una cosa positiva che può accelerare la riduzione del peso delle sofferenze nei bilanci delle banche e aiutare una più accelerata ripresa del credito. Un meccanismo che non servirebbe a salvare le banche, come nel caso della Spagna, ma ad accelerare la ripresa del credito nei confronti dell'economia. Invece il vice direttore generale di Banca Italia, Fabio Panetta, oggi a Roma pure ha detto la sua sulla riforma delle banche popolari e ha commentato che può essere letta come parte di un più ampio sforzo di riforma per portare l'economia italiana ai più alti standard di efficienza europei. Un commento lo ha fatto anche sulla crisi economica, che è stata in parte provocata dalla scarsa integrazione evidentemente europea, ma non possiamo ripetere lo stesso errore, ha detto Panetta, sottolineando l'importanza del progetto di unione bancaria europea ed evidenziando allo stesso tempo le difficoltà dovute a quelle che ha definito forti forze centrifughe nazionali. Un commento oggi anche da parte di Carlo Cottarelli, che come sapete da commissario per la Spending Review è ritornato nel board del Fondo Monetario Internazionale come Executive Director. Cottarelli ha commentato le prospettive per il prodotto interno lordo italiano, che potrebbe andare anche sopra la crescita dello 0,6% stimata proprio ieri dalla Commissione Europea per il 2015. Cottarelli ha fatto queste dichiarazioni, ne sta facendo un po' negli ultimi giorni, le ultime rilasciate in un colloquio con l'ANSA. Ha detto: il calo dei prezzi petroliferi può avere un impatto molto importante per l'Italia e gli ultimi segnali sono già abbastanza positivi. Nel 2015, anche grazie al taglia bollette, provvedimento contenuto nel decreto competitività imprese e famiglie italiane, competitività imprese e famiglie italiane spenderanno circa 2 miliardi e 700 milioni di euro in meno. Il calcolo è stato fatto e diffuso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le PMI dovrebbero spendere 1 miliardo e 700 milioni in meno, un taglio fra l'8,5% e il 10% della spesa, mentre i consumatori dovrebbero avere vantaggi per almeno 1 miliardo complessivamente. La Commissione europea ha chiuso definitivamente l'inchiesta sulla partecipazione di Poste italiane all'aumento di capitale di Alitalia. L'inchiesta era stata avviata, lo ricorderete, nell'ottobre del 2013, nel quadro dell'applicazione, un atto dovuto, questo monitoraggio ovviamente, nel quadro dell'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato. La notizia oggi è stata resa nota da Bruxelles, che ha precisato di aver verificato che Poste, sottoscrivendo l'aumento di capitale per 75 milioni di euro, si è comportata niente di più che come un investitore privato. Oggi un altro tema ha galvanizzato un po' il dibattito politico e sicuramente ne risentiremo parlare anche nei prossimi giorni. Parliamo del dibattito sulla liberalizzazione della vendita dei farmaci. Se ne ritorna a parlare. Cercheremo di arrivare ad una soluzione entro il Consiglio dei Ministri, che si occuperà del provvedimento sulle liberalizzazioni previsto per il 20 febbraio. Questa rassicurazione è stata data oggi dal Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in merito alla misura, allo studio del Governo, che prevederebbe la possibilità di vendita dei medicinali di fascia C a carico del cittadino fuori dalle farmacie e nei supermercati, con naturalmente presentazione di ricetta. Ancora un paio di notizie prima del nostro primo approfondimento di oggi, che sarà inevitabilmente concentrato di nuovo sulla Grecia. Un piano di investimenti da 261 milioni di euro per favorire export e internazionalizzazione delle imprese italiane. Quanto annunciato per il 2015 dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, oggi in occasione dell'inaugurazione della 20ª edizione di Milano Unica. Molta attenzione alle fiere, settore che svolge un ruolo cruciale nella promozione del sistema paese dei nostri prodotti, ha spiegato Calenda al microfono di Cristina Carpinelli. Nell'immediato di prendere le 30 circa fiere italiane che sono leader nel mondo e che sono esposte alla concorrenza, ma molta concorrenza, e rafforzarle facendo venire più buyer stranieri, più media e costruendo intorno iniziative di grande richiamo. Abbiamo identificato insieme alle associazioni industriali quali sono le 30 fiere tra le prime 5 al mondo, sono appunto 31 mi pare, e su questo investiamo. Per le altre ovviamente siamo disponibili a lavorare, ragionare, dare supporto eccetera, ma noi dobbiamo oggi fare delle scelte se non vogliamo disperdere i fondi in rivoli da tutte le parti e rischiare di diminuire il peso delle nostre fiere nel mondo e di conseguenza diminuire anche il peso delle piccole e medie imprese italiane che spesso si internazionalizzano attraverso le fiere. Questo può essere un anno per le esportazioni straordinario e per questo investiamo la somma più alta mai investita dal governo italiano. I governi italiani nel passato hanno sottostimato l'importanza di investire sulla cosa che va bene. Se in totale quest'anno noi spenderemo 261 milioni, che è la cifra più alta mai fatta. Adesso la scommessa è tutta spenderli bene, spenderli laddove le imprese dicono che gli serve un sostegno e non fare piani che non hanno ragione d'essere e fare delle scelte che scontenteranno alcuni, ma che lavoreranno su quello su cui noi possiamo avere la leadership, non su eventi a pioggia o anche per dare soldi a quartieri fieristici che sono sorti un po' ovunque in Italia, che sono state operazioni immobiliari prive di alcun senso. Noi non daremo un euro ai quartieri fieristici, daremo i soldi alle manifestazioni fieristiche, che sono quelle che servono alle imprese e che per cui le imprese possono internazionalizzarsi, attraverso cui le imprese possono internazionalizzarsi. Il resto non ci interessa, riteniamo anzi che ci debba essere una logica di mercato per cui i quartieri fieristici che non riescono a reggersi in piedi si decidono a fare altro. Come stanno reagendo a tutto questo le piccole e medie imprese? Cristina Carpinelli lo ha chiesto al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Sicuramente le piccole e medie imprese ci credono, sono molto ansiose di vedere venire avanti dei risultati, quindi credo che siamo nella direzione giusta. La cosa sicuramente sta cambiando per le condizioni che si stanno verificando all'esterno, il calo del prezzo del petrolio, l'aggiustamento del rapporto euro-dollaro, l'intervento della BCE col quantitative easing. In questo momento fortunatamente direi che abbiamo una serie di fattori che sembrano essere a favore dell'economia e quindi dovrebbero poter smuovere nel breve, anche se nei dati che stiamo raccogliendo di gennaio e di dicembre e gennaio non è che poi abbiamo visto la ripartenza alla grande. Se il governo porta avanti le riforme, perché al di là dei fattori esogeni che sembrano aiutare tranquillamente moltissimo l'economia, ci saremo veramente capaci di mettere mano alle riforme, di portarle avanti, di mettere in pista tutti i regolamenti attuativi dei vari decreti legge che sono stati presentati, che alcune centinaia mancano dei decreti attuativi. Cioè, quindi se siamo capaci di governare realmente nella direzione giusta, dobbiamo essere ottimisti. Tanto vedo che vi state sbizzarrendo sui commenti a proposito delle dichiarazioni di Carlo Cottarelli sul PIL italiano. C'è un ascoltatore che scrive: non ha mai fatto nulla sulla spending review, vuoi azzeccare le previsioni del PIL? Mi pare che in realtà sulla spending review lui un bel dossier lo avesse confezionato, diciamo che non gli è stato permesso poi di portare a compimento il suo lavoro. Mi pare che le cose, ed è anche abbastanza evidente, lo sanno tutti, non siano andate proprio esattamente come la vede lei. Detto questo, prima della pubblicità e prima intanto posso anche salutarlo, Moria Longo del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio a tutti. Visto che si è divertito ad ascoltare tutte le notizie in breve. Prima della pubblicità, quindi devo chiederti di aspettare ancora qualche minuto, dobbiamo anche sentire 100 secondi dell'economia. Questa sera è Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, a raccontarci della revisione del catasto. È pronta la riforma appunto del catasto, arriva la revisione delle rendite catastali. Sentiamolo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La riforma del catasto, attesa e annunciata da molti anni, comincia a prendere forma. Il governo è pronto ad approvare in tempi brevi il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega fiscale, fisserà i nuovi criteri estimativi, vale a dire le regole di base che serviranno per determinare il valore fiscale di tutti gli immobili. Il passaggio è delicatissimo e non necessariamente indolore, perché il valore fiscale degli immobili rappresenta la base utilizzata per calcolare le tasse sugli immobili, e visto quel che è successo negli ultimi anni con gli aumenti giunti con l'arrivo dell'IMU e della TASI, è sempre meglio stare allerta. L'operazione che il governo si appresta a lanciare è complessa e richiederà tempi non brevissimi, qualcuno dice almeno 3 anni, forse ancora di più. Il meccanismo descritto nel decreto che verrà approvato a breve prevede che tramite la raccolta di un'infinità di informazioni e anche attraverso l'utilizzo di stime si andrà ad alimentare una funzione statistica, per la precisione un algoritmo che sarà impiegato appunto per calcolare i valori fiscali delle case, degli uffici, dei negozi. E qui veniamo alla vera domanda: ma in futuro pagheremo più o meno tasse? Beh, diciamo che le anticipazioni sul decreto con i criteri estimativi confermano la clausola antirincari applicata su base nazionale, che prevede appunto l'invarianza di gettito. Né lo Stato né i comuni potranno incassare più di quanto incassano ora. Non è chiaro però chi controllerà. Di certo, se è vero che alcuni proprietari potrebbero avere dei benefici, è altrettanto certo che le nuove rendite si tradurranno in tasse più salate per altrettanti cittadini. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ci ritrovati in diretta, ma solo per 2 secondi, tanto per dire che Milano si sta avviando a chiudere la seduta oggi con un calo dello 0,28%. Sono negative anche le altre piazze europee, Wall Street è positiva. Fatto fatto di stare sempre qua davanti a questi microfoni e raccontare queste cose autorizza le persone a chiederci persino suggerimenti di investimento, e c'è qualcuno che chiede a Moria Longo se è il caso di fare qualche acquisto un po' spregiudicato in questa fase, tipo mettere le mani su qualche titolo di stato greco, insomma con lo spread oltre 1000 punti sul decennale. Non lo so se è il caso di avventurarsi, bisognerebbe avere un pelo sullo stomaco lungo 2 chilometri comunque, e anche un portafoglio lungo 2 chilometri. Esatto. Moria Longo del Sole 24, vi ho già anticipato che ci avrebbe fatto adesso compagnia per questa seconda parte della trasmissione, dedicata ovviamente all'approfondimento delle notizie di giornata sulla Grecia, perché stiamo raccontando minuto per minuto, quasi una cronaca da stadio, su quello che succede in queste trattative che cominciano ad avere anche emotivamente delle estenuanti. Allora, intanto il nostro ministro delle finanze preferito del momento, lo scamiciatissimo Varoufakis, ha terminato il suo roadshow europeo, è tornato ad Atene, da quello che sappiamo? Sì. Penso di sì, mi pare di sì, che non si sia fermato in vacanza da nessun'altra parte. Credo che il colloquio con Schäuble di ieri gli sia bastato per fare qualche riflessione. Oggi commentavo anche con i colleghi della redazione di Focus Economia di questa immagine che c'era sui giornali con Schäuble, che comunque gli punta il dito addosso, anche se poi nel dialogo, nel colloquio, mi dicono che abbia sfoderato tutto il suo fascino Varoufakis, in qualche maniera abbia tentato di far ragionare il ministro delle finanze tedesco. Detto questo, le notizie della giornata quali sono? Intanto abbiamo mercoledì prossimo una riunione straordinaria dell'Eurogruppo, no? La Grecia sarà il primo ed unico punto all'ordine del giorno, Moria, da quello che sappiamo? Sì, il problema è che la Grecia sta sostanzialmente finendo i soldi. Entro il mese ci saranno una serie di scadenze, tra l'altro entro il 18 febbraio la Banca Centrale Europea dovrà decidere, o meglio non entro, il 18 febbraio la Banca Centrale Europea dovrà decidere se mantenere in essere anche l'ultima linea di emergenza che dà le banche greche, oppure chiudere anche quella, perché ogni 15 giorni viene rinnovata, per cui ci sarà un appuntamento importante in cui andrà presa una decisione forte, perché se la BCE decidesse di tagliare anche quest'ultima linea di credito d'emergenza, che ieri è stata aumentata mentre la BCE da un'altra, con un'altra mano stava chiudendo il rubinetto, ma ne apriva un altro, forse il messaggio dell'apertura dell'altro non era stato... No, non è stato, non molto, è stato enfatizzato, molto, ecco, è stato molto più valorizzato in negativo l'altro, ecco, effettivamente. Quindi ci sono una serie di scadenze che stanno arrivando verso da metà mese in poi, quindi entro la prossima settimana qualcosa deve accadere. L'Eurogruppo, si augurano tutti, faccia chiarezza su cosa vuol fare l'Europa. È una partita a scacchi tra le due. Da un lato c'è la Grecia, il nuovo governo greco, che ha fatto delle promesse elettorali molto forti, molto precise, e non può fare un passo indietro, perché altrimenti probabilmente cadrebbe il governo, comunque ci sarebbero serie ripercussioni nel paese. Dall'altra parte ci sono tutti gli altri stati europei che, sebbene le richieste greche non siano così fuori dal mondo, la Grecia non chiede di tagliare il debito. Hanno molto edulcorato i toni dopo la vittoria elettorale. Esatto, la Grecia chiede di avere dei titoli non con un tasso di interesse fisso, sebbene già sia bassissimo, ma un tasso di interesse parametrato all'andamento del PIL. Quindi fanno delle richieste ragionevoli, però i paesi europei hanno paura che se fanno una concessione alla Grecia, dopodiché arriverà la Spagna, soprattutto il Portogallo. Il tema è il precedente che si può creare. In ogni caso, dal mio punto di vista, un precedente si crea lo stesso, perché qualunque sia la decisione dell'Europa verso la Grecia, in ogni caso un precedente si crea. L'Europa adesso è veramente di fronte a un bivio: o sceglie di rimanere unita e di fare una concessione, un passo avanti insieme alla Grecia. La Grecia stessa deve fare le sue riforme, combattere la corruzione, l'evasione fiscale, tutta una serie di problemi che loro hanno enormi, molto molto molto molto maggiori dei nostri. So che sembra incredibile, ma sono molto più grossi dei nostri. Sono piccoli loro, ma i problemi sono ben più grossi, ben più macroscopici, quindi la Grecia deve fare la sua parte, anche l'Europa deve fare la sua parte, altrimenti veramente si rischia grosso, certo. Perché se per esempio la Banca Centrale chiudesse anche l'ultimo rubinetto per le banche greche che hanno perso 70 miliardi di depositi dai livelli del 2010 e soltanto 11 che si aggiungono ai 70 nell'ultimo mese di gennaio, queste sono le stime, e forse a febbraio ulteriori, ecco, le banche greche non starebbero più in piedi, quindi ci sarebbe un serio problema di solvibilità delle banche, quindi dello dello Stato, e quindi si porrebbe veramente il problema dell'uscita della Grecia dall'euro. Quindi insomma, prossime scadenze da monitorare. Intanto la riunione dell'Eurogruppo di mercoledì, il 18 febbraio, come tu ci dicevi. In tutto questo però Varoufakis ha chiesto anche questa sorta di prestito ponte da qui a giugno, nei confronti del quale oggi Dijsselbloem, come non so mai come pronunciarlo, questo nome impronunciabile, ha detto: ma scordatevelo, noi non abbiamo proprio nessuna intenzione di darvi questa nuova ciambella di salvataggio, anche se dovesse essere temporanea. Cosa potrebbe servire il prestito ponte? Il prestito ponte viene chiesto da Varoufakis, dal governo greco, per prendere tempo e fare un programma, perché non dimentichiamoci che il governo greco è andato al potere una settimana fa, 10 giorni fa, ha già incontrato quasi tutti i capi di governo europei, ha incontrato la Banca Centrale Europea, loro fanno delle richieste, ma ovviamente l'Europa gli chiede: sì, ma voi cosa ci date in cambio, che riforme fate? Questo programma va pensato, va ragionato, ovviamente, giustamente, non è che si può fare una cosa in 5 minuti. Loro chiedono tempo, dateci un prestito ponte, fateci arrivare a maggio o magari ancora meglio a giugno, all'estate, a quel punto vi presentiamo un pacchetto di riforme e a quel punto giudicate le nostre riforme, ma non diteci no a priori. Questo è il ragionamento. Sì, esatto. Infatti, tra l'altro, tra le altre proposte di Varoufakis c'è anche quella di dire alla Banca Centrale Europea: scambiami i titoli che hai già in portafoglio, appunto ristrutturameli con delle obbligazioni perpetue. Anche questa c'è tra le opzioni appunto indicate dal neo ministro delle finanze greco. Ti faccio sentire come ha commentato l'intervento della BCE di 2 giorni fa sui titoli di Stato greci, anzi sulle banche greche: non vi diamo soldi perché voi come collaterale oltre ai titoli di Stato greci non potete darci. Padoan è il nostro ministro dell'economia, sentitelo. L'intervento della BCE è opportuno e necessario perché la BCE, come le altre istituzioni europee, devono lavorare all'interno di un quadro di regole che sono condivise e devono essere applicate. E vabbè, tutti ad applaudire naturalmente all'intervento di Draghi, chi mai avrebbe potuto dire no, non ha fatto bene, no? Poi tra l'altro tu commenti anche questo intervento di 2 giorni fa in questo tuo intervento di stamattina sul Sole 24 Ore, che in maniera abbastanza emblematica è intitolato Il salto nel vuoto, e racconti un po', spieghi di questa morsa, di questo conflitto che vive l'Europa in questo momento, perché da una parte ancora ci ritroviamo con tutto il dibattito sull'austerità, ma dall'altra parte bisogna fare i conti anche con le condizioni finanziarie di questi paesi, simil Grecia. Sì, il ragionamento è molto banale. Cioè, l'Europa ha 2 anime, questo è evidente. Una parte, quella che chiede il rispetto delle regole e l'austerità, e prima mettete, fate i compiti a casa, poi ne parliamo, e un'altra parte che dice: è vero che dobbiamo fare i compiti a casa, ma è anche vero che ormai veniamo da anni di recessione, da un'austerità già molto forte, la popolazione è provata, forse non abbiamo fatto tutte le riforme strutturali, però abbiamo fatto tante cose che hanno portato la popolazione alla fame, quindi cerchiamo di venirci incontro, perché sennò la deriva poi anche politica può diventare pesante e controproducente. Sono 2 anime dell'Europa che devono trovare una sintesi, speriamo la trovino nel loro gruppo dell'11 febbraio. Per cui l'Europa, come dicevo prima, è a un bivio, deve prendere una decisione, deve decidere cosa fare da grande, se vuole essere veramente uno Stato dei popoli o uno Stato delle regole scelte certo, altrove, perché sennò il rischio veramente che le pressioni per la rottura possano diventare forti. In questo caso, in questo senso, è il salto nel vuoto, perché stiamo saltando da un'altra parte, bisogna capire da che parte andiamo. In un territorio che non è mai stato naturalmente frequentato, bazzicato, per cui effettivamente non c'è nessun tipo di prospettiva, no, rispetto a quello che potrebbe succedere, perché da quando è stato costruito il disegno europeo, evidentemente una situazione pur di crisi drammatica come quella degli ultimi anni, uno scenario di questo tipo, si è molto concretizzato da vicino, lo scenario della Grexit. Sì, assolutamente. Se per esempio la BCE il 18 febbraio decidesse di non dare più soldi alle banche greche, le banche greche andrebbero in crisi di liquidità, non hanno i soldi per fare, hanno una fuga di depositi che potrebbe addirittura peggiorare, quindi a quel punto dovrebbe intervenire in qualche modo la Banca Centrale Nazionale greca, e quindi in questo caso la uscita dall'euro diventerebbe quasi un dato di fatto, certo. Cioè rischierebbe. È per questo che è molto probabile che qualcosa prima accada, perché in fondo non è interesse di nessuno, non lo chiede la Grecia. La Grecia non vuole uscire dall'euro. Il governo greco l'ha detto un milione di volte: non vogliamo uscire dall'euro, non vogliamo che ci tagliate il debito, chiediamo però tempo e chiediamo un aiuto dal punto di vista dei tassi di interesse che paghiamo. E non è neanche l'interesse dell'Europa, perché sebbene adesso stia passando in Germania il senso che ormai la crisi greca è isolata e non ci sarebbe un contraccolpo negli altri paesi, non dobbiamo dimenticarci, a parte il contraccolpo finanziario che ci può essere benissimo, spread in rialzo, questo è possibile, assolutamente possibile, prevedibile, poi tutto può accadere, ma è prevedibile. Ma c'è un problema serio, che tutti gli stati europei hanno prestato alla Grecia dei soldi, l'Italia ha prestato alla Grecia 40 miliardi, io non credo che se la Grecia uscisse dall'euro sarebbe molto in grado di ridarci. Stiamo parlando adesso dei tassi di interesse, figuriamoci se poi riusciremmo a recuperare questi 40 miliardi. Vi ricordate cosa è successo con Lehman Brothers? Insomma, è stata lasciata fallire, si voleva dare un po' anche una lezione al sistema che si era straindebitato, aveva stracartolarizzato tutti i debiti, tutto quello che vogliamo, insomma non vorremmo mai che si ripetesse una situazione di questo tipo. Qua parliamo di uno Stato sovrano e anche se pur piccolo penso che le conseguenze sarebbero ben diverse rispetto a Lehman Brothers. Sì, io mi ricordo che quando scoppiò la crisi finanziaria in America sui mutui subprime, si dicevano i mutui subprime sono piccoli, non sono importanti, pochi, in realtà hanno i creato, messicani, hanno insomma, creato un'onda d'urto California. Gigantesca. Purtroppo il mercato finanziario, che è circa un 10-12 volte più grande del prodotto interno lordo del mondo, è talmente grande, talmente invasivo, talmente violento, tra l'altro ormai totalmente dominato da robot, da computer, che algoritmi che comprano e vendono nel tempo, che è difficile controllarli. Le reazioni sono spesso violentissime, poi magari nel tempo rientrano, si riequilibrano, ma la reazione immediata è violentissima. Il tema è quello che dici tu, magari non potrebbe anche essere indolore l'uscita della Grecia dall'euro, il ritorno per loro alla dracma, il tema è il precedente, è quello che poi potrebbe succedere se si alza la Spagna e dice: sai che c'è, io ti rifaccio tutta, ti voglio che tu mi rimetti in piedi un'istruttoria che riguardi solo me, ma ritorniamo indietro, io ho fatto la bad bank con le cioè. Quindi queste sono secondo me un po' le preoccupazioni. L'Europa deve prendere una decisione, perché andare avanti con la cieca austerità, con l'imposizione ai popoli interi, decisioni che vengono prese altrove vanificando anche gli esiti elettorali, non è giusto. Ma prenderanno una decisione all'Eurogruppo di mercoledì secondo te, o ritireranno fuori un solito comunicato: facciamo di tutto per salvare la Grecia, non abbiamo nessun interesse affinché allora ci sia sicuramente un passo indietro, la tentazione di tirare fuori il solito comunicato ci sarà, però questa volta ci sono delle scadenze ben precise nel quale la Grecia dovrà rimborsare parte dei suoi finanziamenti, la BCE dovrà prendere una decisione, ripeto, il 18 febbraio, e quindi qualcosa a quei giorni accadrà. Bene. Quindi prima ci vuole almeno capire in che strada stiamo entrando. Che ritardo che ho fatto, grazie Moria per essere stato con noi. Grazie a voi. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, adesso 7 minuti di tempo sono più che sufficienti per raccontare la giornata di borsa. Lo facciamo con Ceo Condina, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buonasera, Ceo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, come dicevamo, seduta tutto sommato tranquilla, meno 0,28% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Abbiamo un calo più marcato a Francoforte, che perde oltre mezzo punto. Parigi meno 0,26, Londra meno 0,18. Positiva invece Wall Street, sia sul Dow Jones che sul Nasdaq che sullo Standard & Poor's. Ma andiamo subito ai temi del giorno di Piazza Affari. Vedo oggi che ha recuperato qualche piccolo punticino Banca Monte dei Paschi, più 3 punti percentuali, insieme ad altre banche. Sì, diciamo che oggi è tornato l'interesse sui bancari, l'interesse sulle popolari era svanito giusto ieri per qualche seduta di realizzo, oggi è tornato in modo abbastanza forte. Bipera ha guadagnato il 2,9%, Popolare di Milano l'1,5%, il Banco Popolare, anche qui abbiamo un guadagno superiore al punto percentuale. Per quanto riguarda il Monte dei Paschi, come dicevi tu, è il titolo migliore di Piazza Affari, guadagna quasi il 3%, sono ripartiti i giochi diciamo per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ma in ogni caso dobbiamo notare che il titolo era sceso veramente tanto e si tratta prevalentemente di un rimbalzo. Leggevo oggi che proprio voi colleghi di Radiocore avete scritto: riaperti i cantieri per il nuovo consiglio di amministrazione, sono stati addirittura conferiti degli incarichi a dei cacciatori di teste. Sì, sì, sì, vediamo. Lavoro complesso questo, lavoro. Infatti. Popolare dell'Emilia Romagna più 2,87, Finmeccanica più 1,49, Pop Milano più 1,45, Banco Popolare più 1,21. Oggi andava molto bene stamattina Saipem più 0,34%, invece sul finale un po' bruciato tutto quello che guadagnava in giornata. Sul petrolio notizie? Ha chiuso a più 0,34%, oggi il petrolio a New York sta ancora guadagnando più di 2 punti percentuali, oltre $51 al barile. Tuttavia sui titoli petroliferi vediamo qualche realizzo, visto che Eni mi pare abbia perso lo 0,8%, anche Tenaris meno 0,9%. Nel caso specifico di Saipem conta soprattutto la grossa commessa che è stata presa in Kashagan, sui giacimenti del Kashagan, per $1,8 miliardi. Ricordiamo che anche in questo caso parliamo di un titolo molto penalizzato, che aveva toccato nelle scorse settimane i minimi degli ultimi 10 anni, oggi era arrivata a rivedere quota 9 euro, toccando i massimi da oltre un mese. Titoli che invece oggi hanno registrato dei cali: Luxottica meno 2,29%, Telecom meno 2%, cominciamo da questi due casi, Ceo. Sì, per quanto riguarda Luxottica e sia per quanto riguarda anche Telecom, sono soprattutto realizzi con motivazioni diverse. Luxottica, diciamo, era cresciuta veramente tanto, da metà ottobre aveva guadagnato oltre il 40%, superando di slancio quota 50 euro. Su Telecom ci sono dei fattori anche un po' diciamo legati a quello che è il business, il presente della società, ci sono le incognite su quelle che potrebbero essere eventuali aggregazioni in Brasile, in particolare con noi, poi c'è anche l'incognita di Metroweb. Telecom sarebbe interessata, insomma, a rilevare o a fare una joint venture con Metroweb sulla banda larga, ma su entrambi i dossier sono molte le incognite, e in questo caso dopo la lunga corsa del titolo, che era arrivata vicino a quota 1 euro, diciamo le incognite favoriscono le vendite da parte degli operatori. Altri cali piuttosto marcati: Autogrill meno 1,78, Yux meno 1,65, questo veramente è un titolo che va non ha mai un andamento costante, o guadagna molto o perde molto. Buzzi Unicem meno 1,54, Fiat meno 1,31, grazie a Lingotto, ormai, anche se non si usa più dire da quando, ovviamente, come dire, un po' tutto l'interesse si è spostato negli Stati Uniti. Anche per quanto riguarda Fiat, diciamo che da quando le borse sono riprese a risalire in attesa del QE di Draghi, che poi è effettivamente arrivato, Fiat era sotto 10 euro, adesso è salita abbondantemente sopra quota 12 euro. Questa settimana aveva ottenuto buone performance grazie alla crescita a due cifre del mercato automobilistico italiano e al record di vendite sempre di Fiat negli Stati Uniti, e oggi qualche presa di beneficio direi fisiologica. Volevo monitorare un attimo Unicredit, non è un tema che abbiamo preparato, il titolo ha guadagnato 0,5 punto percentuale, pare che Ghizzoni, l'amministratore delegato Federico Ghizzoni, abbia intenzione di uscire dall'ABI, anche qua per avere mani libere nella contrattazione aziendale interna, quindi una decisione simile a quella che ha preso Fiat con Confindustria e Unipol con l'ANIA, e quindi insomma qua queste iniziative cominciano a farsi sempre più in largo, sarà interessante monitorarle prossimamente. Fra i titoli minori c'è, possiamo segnalare la prestazione di Moleskine? Sì, Moleskine è andata molto bene, ha guadagnato il 7,5%, qui ci sono i dati del quarto trimestre che hanno dato molta fiducia al mercato su quello che potrebbe essere il mantenimento il rispetto dei target 2015. Nel quarto trimestre c'è stato un andamento dei ricavi molto soddisfacente, più 28%, soprattutto all'estero, in America e in Asia, insomma indicazioni confortanti per il business della società. Poi c'è anche il più 30% di Aedes, in questo caso arrivano indicazioni molto confortanti sul piano di risanamento del gruppo, sul taglio dei debiti. Aedes è da parecchie sedute che diciamo in cima ai rialzi. Devo dire che sono titoli sottili, quindi anche pochi contratti bastano a determinare prestazioni di questo tipo, però insomma più 30% è in ogni caso un aumento eccezionale. Grazie Ceo, buona serata, ti trovo domani al Forex? No, mannaggia, vedo solo i tuoi colleghi. Buona serata. Di nuovo buonasera a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Focus Economia. Andiamo alla nostra seconda parte con il nostro prossimo approfondimento. Ha preso il via oggi, per concludersi domani, il 21esimo congresso dell'Azion Forex. Parliamo dell'Associazione degli Operatori Finanziari, un'associazione che raccoglie 1400 soci fra operatori specializzati sui mercati finanziari internazionali. L'evento, come sempre, vede le conclusioni, in questo caso ci saranno domani mattina, del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Ma quali sono i temi di cui si discuterà quest'anno? Quali sono i temi al centro dell'interesse degli operatori finanziari? Li possiamo immaginare dopo il quantitative easing della Banca Centrale Europea. È chiaro che si cerca un po' anche di quantificare quelli che potrebbero essere gli effetti di questa straordinaria manovra di stimolo monetario che partirà, come sappiamo, da marzo. Buonasera al presidente di Azion Forex, Giuseppe Attanà. Buonasera. Avete già iniziato i lavori, presidente, oggi anche assemblea dei soci. Prima di andare alle questioni del mercato finanziario, alle questioni macroeconomiche, quali sono gli altri temi al centro di questo 21esimo congresso? Ecco, quest'anno il nostro congresso annuale, giunto alla sua 21esima edizione, ha anche ospitato il congresso internazionale degli operatori, quindi un congresso che riunisce 65 paesi al mondo. L'associazione internazionale alla cui noi siamo affiliati comprende circa 13.000 soci e abbiamo iniziato questo congresso internazionale martedì sera, quindi questo è il terzo giorno del congresso. Oggi una giornata intensa, perché ci sono i working shop di lavoro e quindi abbiamo affrontato già in queste sessioni di lavoro tutti i principali argomenti di attualità, da quelli del mercato dei cambi a quelli della gestione della liquidità e quindi degli interventi di banca centrale a quelli delle regolamentazioni. Quindi questa è una giornata particolarmente dedicata ai lavori dei soci e domani passeremo invece a quello che è l'evento principale del nostro congresso annuale, che riguarda l'intervento del governatore della Banca d'Italia. E naturalmente aspettiamo, come sempre, con grande attesa l'intervento del governatore. Quest'anno il suo intervento cadrà in un momento intanto particolarmente vivace per il dibattito che c'è attorno alla questione, per esempio, della riforma delle banche popolari in Italia. Poi abbiamo ovviamente un sistema bancario che teniamo sotto stretta osservazione, un po' perché ci sono due istituti di credito che non vivono propriamente una situazione felice. Abbiamo poi tutta la liquidità che il mercato si attende da parte della Banca Centrale Europea. Ecco, partendo dal quantitative easing, presidente Attanà, voi come operatori finanziari avete fatto delle stime su quello che potrebbe essere l'impatto di questi 60 miliardi di euro al mese che cominceranno ad arrivare, ad essere iniettati sul sistema attraverso l'acquisto di titoli di Stato a partire da marzo? Ecco, questo diciamo che è l'ultimo degli interventi di quantitative easing della Banca Centrale Europea, perché vale la pena ricordare che questa manovra di quantitative easing, quindi di immissione di grande liquidità, è iniziata già da quasi un anno con le prime operazioni straordinarie a lungo termine, di finanziamento a lungo termine del sistema, poi è proseguita con i due programmi di acquisto titoli, quello di cover bond e quello di ABS, e adesso finisce con la manovra forse più attesa, quella di maggior rilievo, che riguarda l'acquisto di titoli di Stato per gli importi che lei citava, annunciati. Ora, già il solo annuncio sta avendo effetti concreti sui mercati, perché solo il fatto che sia stata così rivelata questo potenziale intervento della Banca Centrale sui mercati già ha avuto un effetto sia sui tassi di interesse a breve termine, dove su tutta la curva breve abbiamo tassi negativi, e poi su tutte le scadenze a medio-lungo termine dei titoli governativi, dove i tassi si sono parecchio abbassati e anche parecchio un po' livellati tra di loro. Quindi l'effetto, direi, grosso già c'è stato. Difficile stimare gli effettivi interventi che verranno fatti, in quanto oggi come oggi proprio il livello dei tassi a breve negativo e la carenza di impieghi alternativi da parte degli operatori, quindi l'eccessiva liquidità che c'è sul mercato, probabilmente non rappresenterà un incentivo per le banche a vendere i titoli in portafoglio alla Banca Centrale Europea. Quindi vendendo i titoli in portafoglio si acquisisce questa liquidità e in assenza di domanda di credito questa liquidità non ha impieghi alternativi efficienti. Quindi lei dice bisognerà studiare bene, come dire, il meccanismo poi di trasmissione all'economia reale di questa maxi iniziativa di Francoforte. Banca Centrale Europea continua a dirlo, sa bene di questo fenomeno, cioè fa delle manovre molto corrette, molto opportune, però lei stessa dice che la politica monetaria da sola non può risolvere i problemi della ripresa economica. Per la ripresa economica bisogna che ci sia una maggior domanda di credito e quindi occorrerebbe mettere in piedi anche manovre di politica fiscale e di politica economica da parte dei governi, quelle che noi chiamiamo comunemente riforme, che diano maggiore fiducia al mondo delle imprese, che consenta quindi agli imprenditori di voler rischiare accedendo in misura maggiore al credito bancario e facendo investimenti che produrrebbero reddito, il quale produrrebbe a sua volta consumi, e quindi questo sarebbe il circolo virtuoso che consentirebbe la ripresa dell'economia reale, che al momento è ancora, come dire, parzialmente virtuale. Presidente, in tutto questo naturalmente lei, anche citando le politiche fiscali, un po' ha introdotto l'argomento politica, no? L'ho visto in questi giorni il roadshow di Tsipras e di Varoufakis in tutta Europa per cercare di convincere della necessità di rinegoziare il debito greco nelle modalità che Varoufakis appunto auspicherebbe, ma che però sia dalla Germania ma anche la Banca Centrale Europea hanno respinto con perdite, almeno fino a questo momento, in cui chiaramente la trattativa è solo a livello verbale. Quanto secondo lei la crisi greca si spingerà oltre rispetto a quello che abbiamo visto in questi giorni? È stato chiesto anche un po' un intervento ponte da qui a giugno affinché chiaramente quell'economia respiri un po', perché anche la cittadinanza greca ne ha bisogno. E secondo lei, se si dovesse spingere troppo oltre come dire l'iniziativa greca, e se si dovessero spingere tanto oltre le richieste della Grecia agli organismi internazionali, rischierebbe questa crisi di nuovo di diventare quell'elemento che compromette anche tutta l'iniziativa poi di politica di stimolo monetario che è arrivata da Francoforte una decina di giorni fa? Un rischio c'è, ecco, io qui più che delle convinzioni francamente ho degli auspici e utilizzo o cerco di utilizzare il buon senso. A mio avviso questa iniziativa greca potrebbe avere un effetto benefico a medio termine sull'economia europea in generale, perché potrebbe effettivamente rappresentare un motivo di riflessione per i paesi più rigidi, che possa portare a degli atteggiamenti più elastici e più inclini agli investimenti dei governi, quindi favorevoli effettivamente a un meccanismo di ripresa economica più celere. Questo in teoria, e quindi questo rappresenta l'auspicio che vi sia, chiamiamolo, un gioco delle parti normale nelle negoziazioni così complesse, che porti a degli atteggiamenti iniziali rigidi. Certo che se si dovesse andare avanti per tempi un po' più lunghi potrebbe essere un elemento di potenziale crisi non indifferente, perché il meccanismo poi diventerebbe anziché virtuoso rischioso, e quindi potrebbero intervenire dei dubbi su una situazione che possa effettivamente favorire la ripresa economica. Cioè, è un po' il nervosismo anche dei mercati di questi giorni, hanno già chiaramente indicato anche questi elementi. Presidente Attanà, la lascio tornare al congresso e la ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro anche per domani, giornata in cui, come ricordo, arriverà il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Questo del Forex è un evento che si svolge generalmente appunto in febbraio ogni anno, ed è una delle prime occasioni pubbliche formali da parte del governatore della Banca d'Italia. Ricordo, prima di salutarci in questa prima parte della seconda parte di Focus Economia, che naturalmente come Radio 24 seguiremo in diretta questo evento con collegamenti per il giornale radio. L'evento sarà anche sia domani mattina nell'intervento di Visco, che poi nel pomeriggio l'altro convegno appunto del Forex, che vedrà anche il coordinamento da parte del direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano. Saranno tutti eventi trasmessi via streaming sul sito del Sole 24 Ore. Per questo approfondimento è tutto. Eccoci ritrovati, adesso siamo davvero verso la conclusione, passiamo, come si potrebbe dire, da Wall Street a Main Street, nel senso che partiamo adesso con un argomento che ci dà un po' lo stato di salute di quella che è veramente l'economia reale. Quale settore più di quello agricolo ci può testimoniare come sta andando la nostra economia? Parliamo adesso del latte. Avete sentito anche nel corso dei nostri giornali radio di questa super manifestazione che c'è stata oggi in tutta Italia. Vi racconto qualche notizia a presupposto poi di questo approfondimento. Dall'inizio della crisi economica, che ormai ci stringe come in una morsa dal 2007-2008, è stata chiusa una stalla italiana su 5, con la perdita di 32.000 posti di lavoro, e abbiamo il rischio concreto della scomparsa del latte italiano e dei prestigiosi formaggi, con effetti drammatici anche sulla sicurezza alimentare, sul presidio alimentare. Tutto ciò emerge dal dossier L'attacco alle stalle italiane, che è stato presentato dalla Coldiretti in occasione della più grande operazione di mungitura pubblica mai realizzata, che ha visto coinvolte oggi 13 città italiane, da Roma a Torino, da Milano a Palermo, Udine, solo per citarne alcune. In Italia le poco più di 36.000 stalle sopravvissute alla crisi hanno prodotto nel 2014 circa 110 milioni di quintali di latte, mentre sono circa 86 milioni di quintali le importazioni di latte equivalente. Per ogni milione di quintali di latte importato in più, ha denunciato oggi la Coldiretti, scompaiono 17.000 mucche e 1.200 occupati in agricoltura. Sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati Ismea, il latte, questo è il grosso problema, viene pagato agli allevatori in media 35 centesimi al litro, con un calo di oltre il 20% rispetto a quanto già a livello bassissimo veniva pagato un anno fa. Mentre sapete bene, perché al supermercato ci andate tutti, al consumo il costo medio per il latte di alta qualità è di 1,50 euro. E allora, in poche parole, spiega la Coldiretti, gli allevatori devono vendere 3 litri di latte per bersi un caffè al bar, 4 litri per pagarsi un pacchetto di caramelle, 4 litri per una bottiglia di acqua al bar, mentre quasi 15 litri di latte devono essere venduti per farsi un pacchetto di sigarette. Insomma, sentiamo qual è il problema di fondo che ha spinto Coldiretti a scendere oggi nelle piazze italiane con questa grande manifestazione per la difesa del latte italiano. Valeria De Rosa ha intervistato il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo. Il problema è un problema assolutamente chiaro. I nostri allevatori hanno subito un taglio del prezzo del latte del 20% negli ultimi mesi, mentre il prezzo per i consumatori continua ad aumentare. Questo sta mettendo in ginocchio le nostre imprese, perché con 35 centesimi non si coprono neanche i costi vivi per il cibo, per i nostri animali. E nello stesso tempo non si fa nessun tipo di vantaggio per i consumatori, che continuano a vedere crescere il prezzo dei prodotti. Allora dobbiamo cambiare verso, perché altrimenti rischiamo di non avere più animali nelle nostre montagne, nelle nostre campagne, e questo è un danno, perché dal nostro latte produciamo i migliori formaggi DOP italiani, che sono famosi in tutto il mondo, e perché rischiamo di mettere in discussione il futuro di tantissimi giovani e tantissimi occupati in una filiera fondamentale che genera oltre 180.000 posti di lavoro. E la soluzione secondo voi qual è? Chiarezza e trasparenza nella filiera, quindi origine in etichetta prima di tutto, come elemento per dare trasparenza ai consumatori. Oggi noi importiamo oltre il 40% del nostro latte e il consumatore non lo sa, perché non c'è obbligo in etichetta né sul latte a lunga conservazione e né sui formaggi e sugli altri trasformati del latte, ad eccezione dei prodotti a denominazione d'origine. Poi dobbiamo iniziare a chiamare formaggio solo ciò che deriva veramente dal latte e non dalle cagliate, dalle polveri e dalle caseine. e poi dobbiamo finalmente rendere pubblici tutti i dati relativi all'import del latte e dei derivati. Vogliamo sapere chi sta ingannando i consumatori, perché questo ancora i consumatori oggi non lo sanno. E siccome, come si suol dire in questi casi, piove sempre sul bagnato, nell'ultimo anno del regime delle quote latte rischiano di arrivare anche nuove multe per il superamento da parte dell'Italia del livello di produzione assegnato dall'Unione Europea. Anche questo emerge da questo dossier di cui parlavamo con Moncalvo poco fa, l'attacco alle stalle italiane presentato oggi da Coldiretti. La questione delle quote latte è iniziata 30 anni fa, nell'83, con l'assegnazione ad ogni Stato membro dell'Unione di una quota nazionale che poi doveva essere divisa fra i produttori. All'Italia fu assegnata una quota molto inferiore al consumo interno di latte e dopo 30 anni queste sono oggi le conseguenze. Sulla questione dei prezzi del latte sentiamo anche Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte, che è l'associazione italiana lattiero casearia, ancora al microfono della nostra Valeria De Rosa. Gli allevatori credo che siano principalmente preoccupati per quella che è la situazione del momento, che ha visto un forte ribasso dei prezzi del latte. Ahimè, noi viviamo lo stesso mercato e siamo vicini a loro, in realtà non ci sentiamo gli antagonisti come ci vogliono dipingere, perché siamo le aziende, le industrie italiane sono quelle che comprano tutto il latte italiano, lo trasformano, lo vanno a rivendere e in realtà da sempre paghiamo il prezzo del latte agli allevatori italiani, che è il prezzo più alto che si paga in Europa. Loro dicono, a loro viene pagato 36 centesimi nel banco frigo, il latte costa un prezzo poi variabile tra 1,10 euro e 1,70 euro, insomma il ricarico è parecchio. Ma il ricarico, a parte che il latte nei punti vendita si trova anche a 60 centesimi al litro, ma comunque per il latte fresco c'è un processo che è legato, proprio perché il latte fresco, ai costi di raccolta, di gestione, di analisi, di confezionamento, di distribuzione e anche di ritiro dell'invenduto, che ha una forte incidenza diciamo su tutti i costi che vanno a comporre il prezzo finale, senza contare che esiste l'importante margine anche della distribuzione, della grande distribuzione, coloro che poi rivendono il prodotto. Curiosisce un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: signora, sono tutte notizie di parte, vogliamo sentire anche l'altra campana. Che cosa significa dovremmo sentire le mucche nelle stalle? Non riesco a capire se magari ci argomentasse questa sua visione. L'ultimo commento che ascoltiamo è quello del ministro dell'agricoltura Maurizio Martina, che oggi ha offerto la sua sponda alla protesta degli agricoltori, ha portato il suo sostegno alla manifestazione appunto dei produttori di latte organizzata dalla Coldiretti. Ha auspicato, forse l'altra campagna è questa, quella a cui si riferisce l'ascoltatore, che l'industria batta un colpo. Chiedo di fare uno sforzo, di riconoscere che in Italia i costi di produzione, come per tantissimi altri settori, sono i più alti. Sentiamolo intervistato da Simone Spezia. L'Italia si deve preparare a questa svolta, che l'Europa deve battere un colpo. Noi l'abbiamo chiesto insistentemente in questi sei mesi, in particolare in questi sei ultimi mesi, quando con la presidenza più volte abbiamo chiesto la Commissione di concretizzare alcuni strumenti di uscita morbida da questa situazione. Il dato evidente è che noi non possiamo privarci delle nostre stalle, del nostro latte. Per me la chiave fondamentale del rapporto, in particolare nella filiera lattiero-casearia, è l'interprofessione, una vera interprofessione nuova dove tutti i soggetti della filiera facciano insieme lo stesso mestiere, ragionino insieme ovviamente dell'andamento del prezzo, ma anche di alcune politiche per l'intero comparto. Tutte le politiche di sostegno e di promozione al lattiero caseario si possono sviluppare insieme. Il fatto che l'Italia non abbia un luogo permanente stabile di confronto tra tutti i soggetti è uno dei problemi che noi abbiamo e che dobbiamo superare. E allora, molti ascoltatori si stanno dando un grande affare per spiegarmi dove stanno realmente le ragioni di questa protesta, come stanno le cose a proposito dell'assegnazione delle quote latte. Io dico solamente che per un litro di latte prodotto ad un agricoltore non gli puoi dare 35 centesimi di euro, perché è veramente una vergogna. Non si campa, ricorderete quello che è successo la scorsa estate con le pesche nettarine tutte buttate al macero, per le stesse identiche ragioni, per cui io penso che per quello che riguarda l'agricoltura italiana dovremmo avere più rispetto di chi ci lavora nella terra. Allora, saranno banalità, ma io intanto le dico liberamente. Grazie a Leonardo Sirigato, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per la collaborazione in redazione, Gianmarco Ferronato per l'assistenza tecnica, Sebastiano Barisoni che ogni tanto mi dà questa splendida opportunità di condurre Focus Economia. Grazie a tutti e buon fine settimana. Radio 24. La passione si sente.